Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e ben ritrovati da Nicoletta. Obiettivo salute, cervello, peperoncino e allenamento in palestra. Questi sono i temi di oggi, ma andiamo per ordine. Partiamo dal cervello, lo facciamo perché da oggi si apre la 10ª settimana nazionale della prevenzione dell'invecchiamento mentale. 7 giorni in cui gli esperti di Assomensana, l'associazione che da anni si occupa della ricerca anti-aging cerebrale e delle sue applicazioni, daranno lungo tutto lo stivale consigli su come mantenere una mente allenata e ritardare la comparsa dei problemi di memoria. 3 sono gli ingredienti da tenere a mente: buon sonno, flessibilità e curiosità. A Obiettivo Salute il commento del professor Alfredo Giuseppe Iannoccari, docente alla Statale di Milano e presidente dell'Associazione Assomensana. Certo, Nicoletta, 3 sono gli ingredienti per mantenere la mente in forma a tutte le età. Sonno: è importante dormire il giusto tempo durante la notte, è soggettivo, possono essere 6, 7, 8 ore, quello che sia, ma che cosa ci fa capire che il sonno è stato riposante? Il fatto che la mattina ci alziamo e siamo pieni di energia, quindi è importante dormire bene per svegliarsi bene e sentirci riposati. Flessibilità: cambiare punto di vista, sapersi adattare alle situazioni nuove che si presentano in modo tale da non rimanere incastrati in una situazione che non ha via di uscita. Quindi cambiamo punto di vista e in questo modo riusciamo sempre a trovare una via di uscita e una soluzione adattiva. Curiosità: è importante per il nostro cervello che siamo curiosi, che ci interessiamo a quello che ci circonda, a quello che ci sta intorno. Come funzionano le cose? Che cosa voglio fare qualcosa? Ce la posso fare? Sì, sicuramente ce la possiamo fare se manteniamo uno stile curioso e attivo. Se volete saperne di più, tutti i consigli del professor Iannoccari sulle pagine di Obiettivo Salute. E dal cervello passiamo al cuore. Una ricerca condotta in Cina dimostra che il consumo di peperoncino si associa al miglioramento del rischio cardiovascolare. A Obiettivo Salute il professor Andrea Poli, direttore scientifico di Nutrition Foundation Italia. I dati fanno vedere che il consumo di alimenti speziati si associa soprattutto a un più basso tasso di colesterolo cattivo, l'ormai ben noto LDL, e a un lieve aumento del colesterolo buono, l'HDL, e probabilmente l'alimento più responsabile è proprio il peperoncino che lei citava. Ci sono alcuni composti nel peperoncino, la capsaicina, ma anche alcuni polifenoli che hanno un certo effetto di riduzione diretta del colesterolo, oppure l'effetto potrebbe dipendere dal fatto che quando speziamo gli alimenti abbiamo meno bisogno di condirli con grassi e di conseguenza l'effetto dipende anche dal fatto che utilizziamo meno condimenti. E dalle parole passiamo alle immagini con le foto di Luigi Sutera 12, il poeta dello specchio, in esclusiva per Obiettivo Salute per uno sguardo nuovo sulla settimana. Guardate, ispirate e scriveteci. È arrivato il momento di salutarci, Obiettivo Salute termina qui, ma la programmazione di Radio 24 continua con Melog. Io vi aspetto con la mia diretta Facebook, parliamo di palestra. Per oggi è tutto, allora vi aspetto domani a mezzogiorno quando scocca l'ora della salute.